Olimpia di Dario Ricci. Aveva immaginato di raccontare la Brexit, anzi no, forse avrebbe preferito proprio non raccontarla la Brexit. Da grande europeista, innamorato dell'Europa, com'era. Ma se proprio avesse dovuto raccontarla, l'avrebbe raccontata, e aveva anche scritto un articolo in questo senso, l'avrebbe raccontata nel modo più originale, non partendo dai grandi discorsi politici che in queste settimane, in questi anni ci hanno accompagnato verso l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, ma raccontando la cosa che poi forse interessa di più tanti appassionati di sport e soprattutto di calcio, no? Ma con questa Brexit, la Premier League come cambierà? Come cambierà il campionato più seguito e amato al mondo, adesso che dall'Unione Europea l'Inghilterra, il Regno Unito alla fine è uscito? Ecco, colui che aveva avuto questa illuminazione, questa simpatica e acuta intuizione risponde al nome di Antonio Megalizzi, quel giovane giornalista che appena 29enne è rimasto ucciso, come ben sapete, il 14 dicembre 2018 in un attentato jihadista nei mercatini natalizi di Strasburgo. Ebbene, ci è tornato in mente Antonio, che mai avevamo dimenticato, a partire proprio dal giorno della sua scomparsa, per tanti motivi, perché da convinto europeista abbiamo provato a immaginare come avrebbe vissuto questi giorni così particolari per la storia di tutti noi, e anche perché da grande appassionato di sport c'era un legame profondo che lo univa col calcio e con la visione dello sport a livello europeo, e anche perché oggi la sua memoria viene perpetuata e riverberata in tante forme, a partire dal libro che sto stringendo tra le mani, Il sogno di Antonio, storia di un ragazzo europeo, edito da Solferino, scritto da Paolo Borrometi, collega, amico, giornalista che è oggi ospite di Olimpia. Benvenuto a Olimpia, la città dello sport, Paolo. Grazie dell'invito e grazie di quello che fate per permettere, io penso sia la cosa più importante, ad Antonio di continuare a fare cose e di poterne parlare al presente. Assolutamente sì, perché la sua memoria, ma anche tante delle sue azioni, riverberano ancora oggi e ancor di più lo faranno a partire da oggi, perché ma adesso lo diremo. E a scoprirlo ci aiuterà Luana Moresco, fidanzata di Antonio Megalizzi. Grazie Luana per essere oggi ospite di Olimpia, la città dello sport. Ciao Dario, grazie mille per l'invito. Sono molto felice di ritrovarti dopo il nostro primo incontro di quest'estate all'evento sullo sport di Macerata, quindi grazie mille per avermi invitato insieme a Paolo. Eh sì, davvero ci siamo conosciuti nell'occasione dell'Overtime Festival di Macerata, tra l'altro uno dei frutti, quando il seme buono cade sulla terra buona, inevitabilmente si generano frutti altrettanto rigogliosi. Ebbene, vale la pena ricordare, no, Luana, che proprio a partire da quell'incontro l'Università di Macerata ha dato vita, insieme agli amici dell'Overtime Festival, ad una borsa di studio che connette e collega proprio gli studi in scienze della comunicazione agli approfondimenti legati al mondo radiofonico, intitolata proprio ad Antonio, vero? Sì, l'Università di Macerata ha proposto questa iniziativa che poi ho portato avanti, è una delle tante iniziative, delle tante borse di studio che sono nate proprio per ricordare Antonio, per portare avanti il suo messaggio e per far sì che il messaggio che voleva portare al mondo non finisca con dicembre dell'anno scorso, ma ma continui e viaggi anche sulle gambe dei tanti ragazzi che potranno usufruire di queste possibilità. È così e sarà così. Paolo Borrometi, parliamo di un collega, Antonio, ma se permetti, un pizzico di gelosia, nel senso che era più collega mio che tuo, nel senso che lui era veramente straordinariamente innamorato della radio, come ricostruisci bene in ogni pagina di questo libro. È assolutamente così, hai fatto benissimo a sottolinearlo. La radio, nei fatti, ci ho pensato più volte, corrisponde proprio a quel tipo di giornalismo che piaceva ad Antonio, cioè un giornalismo diretto, un giornalismo con pochi filtri, un giornalismo che possa arrivare anche in maniera, come dire, più casual, potremmo dire, più pop, come piaceva a lui, però direttamente all'obiettivo. Tu prima hai fatto l'esempio della Brexit. Bene, Antonio nei fatti ha raccontato la Brexit e lo ha raccontato proprio con quella grande metafora di ciò che accadrà a uno dei campionati più amati probabilmente, che è appunto quello della Premier League. Lui faceva l'esempio di calciatori che giocavano all'epoca in Premier League come Lukaku, ad esempio, oggi calciatore dell'Inter, però comunque con quello status che avrebbero perso di giocatori comunitari e sarebbero diventati giocatori extracomunitari. E perché faceva questo esempio? Riflettiamoci. Lo faceva per tentare di spiegare un complesso così difficile come quello che sarebbe accaduto ed è accaduto con la Brexit, rendendolo accessibile a tutti, perché questo è Antonio Megalizzi, cercare di spiegare cose molto difficili rendendole accessibile a tutti quanti, a tutti, proprio a tutti, e in questo la radio, tu gli insegni e lui ci ha insegnato, essere lo strumento più diretto, soprattutto con i ragazzi e i più giovani. Eh sì, insomma, no, Luana, tu che hai conosciuto la radio e continui a conoscerla anche attraverso le esperienze che da Antonio sono nate, insomma, noi dobbiamo essere diretti, dobbiamo essere semplici, dobbiamo essere chiari e al tempo stesso accattivanti. Direi che Antonio era proprio radicato in quest'humus attraverso quel progetto di radio universitarie europee di cui era uno dei motori primi, no? Sì, Antonio ha fatto radio già da quando era bambino. Le prime foto in cui Antonio fa radio o comunque cerca di farlo risalgono veramente a quando era piccino. Ha sempre avuto questa passione e l'ha usata anche per combattere la sua timidezza che lo caratterizzava durante la sua adolescenza. Quindi per combattere questa sua caratteristica ha deciso di immergersi nella radio, ha iniziato già a fare i primi tirocini durante ancora le superiori e poi ha continuato prima dall'intrattenimento per poi arrivare attraverso il progetto di Eurofonica a poter trattare di tematiche come le politiche e le istituzioni dell'Unione Europea, e quello è diventato un po' il motore della sua vita. Antonio voleva raccontare le istituzioni, dare un'altra visione, riuscire a spiegarle, spiegare in modo semplice senza banalizzare, e questo era quello che poi, diciamo, su cui ha basato la sua vita. Ha iniziato un master proprio in studi europei e internazionali per fare meglio il suo lavoro di giornalista, quindi per riuscire veramente a raccontare nel modo più totale, più onesto, più veritiero delle materie così complesse. Non gli bastavano le sue competenze da giornalista, ma voleva veramente sviscerare la materia, e per questo si è iscritto a una magistrale per poter veramente poi raccontare queste istituzioni in modo semplice, in modo chiaro, in modo immediato. Il progetto di Eurofonica era il progetto ideale, era un progetto che nasce per i ragazzi, con i ragazzi, che avvicina le istituzioni ma a questo mondo giovanile. È davvero emozionanti le pagine in cui vengono descritti i vostri viaggi in pullman attraverso l'Europa, in cui il vero carburante è la passione. E in tutta questa passione c'è anche, devo dire, altra nota d'orgoglio, un amore per Radio 24, no? Mi raccontavi che quando vi trovavate a Roma, Antonio ogni tanto andava a bussare in redazione, sia offrendosi per la collaborazione, ma anche per godersi dal vivo le puntate della Zanzara. Sì, Antonio adorava Cruciani e Prenzo e non si è mai perso, penso, una puntata. Quando non poteva, aveva questi podcast ed era proprio appassionato, amava questo modo anche un po' ironico, capace di trattare l'attualità, di essere pungenti, di riuscire a cogliere le news. E quindi io ho fatto un master al Sole 24 Ore e Antonio veniva apposta per poi riuscire a salire. E devo dire che la redazione di Roma lo ha sempre accolto nel modo migliore, anche ha conosciuto Parenzo, è rimasto fino a sera, io mi ricordo che a un certo punto ho abbandonato, ammesso, per fame la trasmissione, ma Antonio mi ha lasciato da sola per rimanere fino all'ultimo, perché era uno dei suoi grandi sogni. Poi Luciani lo aveva anche conosciuto sia a Milano che durante il Fru di Verona, che è il Festival delle Radio Universitarie, e aveva proprio fatto una mini diretta con Cruciani e, diciamo, ha poi travolto e infestato quasi le chat di WhatsApp rimandando pezzi di queste interviste e le foto di quei momenti come comunque uno dei suoi piccoli sogni, no? Un esempio che ha potuto conoscere e da cui comunque ha imparato qualcosa, perché quello poi era un po' il fulcro, imparare sempre da tutte le persone che incontrava. Eh sì, davvero uno straordinario catalizzatore di interessi e di curiosità e anche di una passione calcistica molto ben radicata. Allora ragazzi, prendiamoci un attimo di pausa qui con Luana Moresco e con Paolo Borrometi mentre stiamo sfogliando Il sogno di Antonio, storia di un ragazzo europeo con gli scritti di Antonio Megalizzi. Prendiamoci un attimo di pausa qui a Olimpia e poi torniamo a parlare con i nostri amici. Olimpia. Tu cominci sempre qualcosa, poi mi lasci sospesa e non parli di te. Tu, ragazzo dell'Europa. Tu, col cuore fuori strada. Il sogno di Antonio, storia di un ragazzo europeo, è il libro che stiamo sfogliando insieme oggi, perché oggi Olimpia è una puntata particolare, non parliamo solo di sport, anche se poi di sport parliamo, perché stiamo raccontando l'amore per l'Europa, anche per l'Europa dello sport, di Antonio Megalizzi, un collega, un ragazzo che ad appena 29 anni, come ricorderete, è rimasto vittima di un attentato di matrice jihadista il 14 dicembre del 2018 a Strasburgo. Ebbene, da quell'evento tragico è nato questo libro, ma tante altre iniziative stanno nascendo, perché così succede quando ci lasciano le anime belle. Antonio Megalizzi, giornalista, collega, appassionato della radio, ma Luana Moresco, che di Antonio è la fidanzata. Luana, anche grande appassionato di Juventus, e in questo devo dire ci troviamo affratellati, faccio pubblicamente coming out, perché nel leggere il vostro libro mi sono scoperto felicemente affratellato ad Antonio in questa passione bianconera. So che insomma cercava compatibilmente col lavoro e tutto di non perdersi una partita, no? Sì, purtroppo devo ammettere di sì, perché... Non è che sei interista, per carità, non dai, no, per carità, con tutto il rispetto per i... Dobbiamo dire tutto, quindi pensa cosa voglia dire per un interista mettere in risalto la passione juventina di Antonio. Oh, no? Beh, questa è anche una bella cosa, finalmente possiamo anche mescolare queste passioni calcistiche all'insegna di un certo fair play, no Paolo? Insomma, perché rimanere divisi su due campi armati quando si parla di passione per lo sport? Assolutamente sì, guarda, ti posso dire che per la prima volta la Juventus mi è diventata un po' simpatica e questo è un altro dei miracoli di Antonio Megalizzi. Eh sì, davvero, in queste pagine si raccontano proprio questi episodi di questa passione condivisa anche col papà in famiglia, perché Antonio è famiglia di origine calabrese, trasferita molto presto a Trento, dietro si era portata, come capitava molto spesso anche in quegli anni, ancora oggi, questa passione per i colori bianconeri, no Paolo? Sì, assolutamente, ci sono tanti episodi che si potrebbero raccontare e che ad esempio Mimmo, il papà di Antonio, mi ha raccontato, proprio perché questa passione per la Juventus univa le generazioni e anche il nonno, ed è importante ricordarlo, è importante ricordare di come Antonio regalò una maglietta della Juventus a Mimmo, a papà, e di come loro erano accomunati da quella passione, ma proprio come ragazzi, come persone normali. E colgo l'occasione inserendoli in questo discorso. Antonio è profondamente un ragazzo normale, non è un esempio inarrivabile, anche nelle piccole cose, nella passione per la Juventus, nelle partite che vedeva con suo padre, nello sfottò, se mi permettete, che faceva proprio a noi quando in tanti post ancora visibili sulla sua pagina Facebook, a noi interisti ci prendeva in giro letteralmente sempre per il discorso dei rigori che oggettivamente la Juventus ruba, però no, ovviamente scherzo, però certo. Questo fa anche comprendere quanto grande nella normalità fosse Antonio, e mi fa piacere ricordarla ancora una volta con il sorriso e con le parole che trovate nel libro di Mimmo Megalizzi, che è appunto il papà. Ecco, se aveva una passione per i bianconeri, per la Juventus e per lo sport, aveva una grande idiosincrasia invece, direi anche un odio giornalistico per le fake news, no? Aveva intuito Antonio, partendo dal lavoro quotidiano, quanto fosse insidioso e pericoloso questo mostro delle fake news che vediamo riverberarsi ormai e contaminare tutta l'informazione che pure vuole essere di qualità, no? Mi pare che questo libro ci aiuti anche a mettere a fuoco questo concetto. Assolutamente, perché Antonio era un vero e proprio cacciatore di fake news. Guardate, Antonio dormiva pochissimo, perché per lui dormire era quasi tempo perso, anzi tempo perso, e spessissimo la sera tardi o comunque la mattina presto si dedicava proprio per smascherare le fake news. Però a lui non bastava smascherare le fake news, ma voleva sui social tentare addirittura di spiegare a chi produceva queste fake news quanto queste notizie false fossero false, ma proprio provandolo con dati certi, con dati scientifici, e le utilizzava anche per far comprendere. Abbiamo parlato della Brexit, lui disse appunto che la Brexit nei fatti fosse anche il risultato di fake news raccontate al popolo britannico, ma lo era sulla questione dei migranti e lo era ovviamente sulla questione dell'Europa, no? Perché lui contrastava, potremmo dire, l'odio verso l'Europa, proprio giustificandolo con queste continue fake news che venivano prodotte per allontanare quanto più possibile l'istituzione europea dagli italiani, ad esempio, ma dai popoli europei. Eh sì, addirittura era diventato collaboratore del sito bufale.net, no? Che è un sito, insomma, il nome è eloquente, proprio perché la rete diventa ancora oggi, ed è ancora oggi, il luogo dove questa caccia deve essere più severa e incondizionata, no? Tant'è che trovate anche le pagine in cui, quasi da mass mediologo, Antonio Megalizzi metteva a fuoco i rischi della rete e il loro riverberarsi sulla nostra società, sulla nostra vita politica, sulla nostra credulità. Ecco, torno a Luana Moresco, perché ci stiamo avvicinando proprio agli ultimi minuti, no, di questo incontro, di questa chiacchierata bella ed emozionante. E dicevamo proprio appunto come da quel giorno tanti progetti sono partiti, tanti si stanno concretizzando. Uno in particolare, faccio riferimento, Luana, correggimi se sbaglio, alla fondazione che sta vedendo la luce proprio in questi giorni, in queste settimane, no? Sì, assieme con la famiglia e diciamo, tante istituzioni, sia territoriali, ma soprattutto devo anche ringraziare le istituzioni del mondo del giornalismo che dall'inizio, nei primi giorni, ci sono stati a fianco. Siamo riusciti a creare questa fondazione, la Fondazione Antonio Megalizzi. La fondazione nasce proprio per portare il messaggio di Antonio nelle scuole, nelle università, nei luoghi della società civile, vogliamo che la voce di Antonio non smetta di risuonare, vogliamo che abbia l'opportunità di essere, e sicuramente la fondazione gli permetterà di realizzare almeno in parte quelli che erano i suoi sogni. Antonio avrebbe avuto un impatto sul mondo e ha avuto un impatto nelle nostre vite e nelle vite di tutte le persone che lo hanno conosciuto, e noi gli vogliamo solo dare quella possibilità che è stata portata via e che è giusto che gli sia ridata. E quindi la Fondazione Antonio Megalizzi sarà il suo presente e futuro. E Olimpia, per il poco o il tanto che potrà fare, vi sarà a fianco. Intanto l'invito è quello di sfogliare, leggere, studiare, sì, perché i libri spesso è bello leggerli con una matita in mano, e questo è uno di quelli. L'invito è veramente quello di sfogliare Il sogno di Antonio, storia di un ragazzo europeo, edito da Solferino, con gli scritti di Antonio Megalizzi. E il mio grazie di cuore per queste parole, per questo libro, va a Luana Moresco e a Paolo Borrometi. Grazie per essere stati oggi ospiti di Olimpia, la città dello sport. Grazie mille, Rario. Grazie a voi di cuore. Olimpia, miti e verità dello sport. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet radio24.it.